Ethno Chic, musica ad indicazione geografica protetta. Musica con indicazione geografica protegida. Musique avec indication géographique protégée. Music with a protected geographical indication. Buonasera, bentornati per questa diretta del 14 marzo 2018 di Ethno Chic qui su Radio Città del Capo 96250 94700 oppure sul sito della radio in streaming. Se volete mandare un messaggio potete mandarlo al 348 76 49 289. Buonasera Mariano. Buonasera Vladimiro. E stasera esordiremo parlando di... È una puntata piuttosto ricca e piuttosto multiforme questa, in cui vi parleremo anche di alcune manifestazioni a cui ho partecipato, insomma, due conferenze, convegni piuttosto interessanti che si sono svolte in due punti differenti del nostro paese e che in qualche modo ci riguardano e che trattano alcuni temi che abbiamo anche affrontato in passato. Esattamente un mese fa, infatti, ricordavamo a 15 anni dalla scomparsa Roberto Leidi, appunto, questa figura di etnomusicologo, animatore culturale, professore al DAMS di Bologna. E tra le poche iniziative che per ora si sono svolte per ricordare questa occasione, si è svolto lo scorso fine settimana a Roviano, paese della provincia di Roma, ai confini con l'Abruzzo, una manifestazione, appunto una conferenza in ricordo di Roberto Leidi, dove presso il Museo della Civiltà Contadina Valle dell'Aniene, appunto, che è presso il Palazzo Brancaccio, altrimenti detto castello, di questo piccolo borgo medievale molto, molto bello. E iniziativa meritoria che si unisce a molte iniziative che appunto questo museo sta facendo per approfondire gli aspetti della cultura tradizionale. Infatti nello stesso... E il giorno dopo, la domenica, c'è stata la presentazione di questo primo volume dedicato al cibo, alle feste appunto del territorio, un modo anche per pensare alle tradizioni locali e in qualche modo però essere collegati a un contesto più ampio. Infatti la conferenza trattava appunto del fondo Leidi, questo fondo appunto delle registrazioni, strumenti musicali e i libri che sono custoditi appunto al centro di dialettologia del Canton Ticino a Bellinzona e poi anche delle ricerche di Leidi all'estero, di cui poi sono stato io relatore e anche musicista insieme al collega Alessandro Presadasso che mi ha accompagnato. Che dire, è stata molto interessante la relazione del direttore, caro amico, anche Emiliano Migliorini, sul fondo Leidi di Bellinzona, di cui entrambi abbiamo collaborato alla catalogazione, anche semplicemente a prendere questo materiale che era custodito a casa di Roberto Leidi e quindi poi doveva essere catalogato e trasferito a Bellinzona. Un materiale appunto che Leidi ha tenuto che rimanesse il più possibile intatto e non venisse suddiviso, e per questo è appunto andato in Svizzera. Materiale, soprattutto le registrazioni audio che spaziano dalle registrazioni di strumenti tradizionali italiani che si sono persi, appunto alle registrazioni fatte all'estero, oppure coppie di materiale di allievi, di collaboratori è stato molto interessante e anche emozionante, devo dire, risentire anche la voce del mio professore e anche insomma farlo sentire, riuscire a cercare in qualche modo con i racconti a trasferire insomma l'esperienza insomma di quel periodo. E a quell'esperienza risale anche un po' il nostro primo ascolto, che è appunto questa ballata, questo canto narrativo di una delle più importanti ricerche che ha fatto in Piemonte insieme a Franco Coggiola, Roberto Leidi, appunto sul canto narrativo e in particolare i canti narrativi nella zona del Canavese, vicino a Torino. E questa è Teresa Viarengo, che è una registrazione del 1964 di questa Cecilia. Ana sun tre gentil dame cana venu daliu, la più bella le Sicilia cala il suo marin persu. O buon dì, buon capitani, o buon dì, l'udagabun, e una grazia che mi feisan, feisa vedi me marin. O sì sì, donna Sicilia, che una grazia ula fasmi, basta sul donna nutea, ca veni a dermi cumi. O sì sì, sul capitania me marin, il vagadì. O se il sarà content chiele, contenta saremi. So marile era la finestra da lontan, la vista venir. Che ne vin portevi Sicilia, che ne vin portevi a mi. E per voi nasun tan buoni tan grami, nasun per mi. Anse ma sur capitani e min tu cande durmi. Onde pura donna Sicilia, onde pura se vorì. Vui an salverei la vita e l'onura lo salmi. Butevi la vesta bianca con el fau da l'intatin, vi vederan tan bella e avran pietà di mi. Asna ven la mezzanotte che si li adan suspir, scherdi vade si sugnea, fei sumeri somarin. O dormi, dormi, Sicilia, o dormi, la se dormi. Duman matin bonura, na vedrei lo vost marin. Asna venga la mattinea che Sicilia sleva su. A se fasse alla finestra, vede so mari pendu. O vilan d'un capitani, o vilan. Vui me tradì, a me leva l'onore e la vita a me marì. O tasi, tasi, Sicilia, o tasi un po', se vui vorì. Sì, ma sì, tre capitani, pievi vui col cavoi. Mi vei fa che la neva vada da Lyon fin a Paris. Che mi abbia sposa il boia, el boia del me mari. Sana sun tre gentil dame canave, nuda al merco. Hai an visto una Sicilia, bene morta per la stra. Teresa Viarengo, la ballata a Cecilia, questo canto narrativo diffuso un po' in tutta Italia, da nord a sud. Qui siamo nell'astigiano, non nel canavese, perdonate l'errore. Questo canto tradizionale che racconta la storia di questa donna che appunto ha il marito in prigione e viene ricattata dal capitano alle guardie, che gli dice: se vieni a letto con me libererò tuo marito. In realtà il capitano alle guardie fa uccidere suo marito e lei alla fine insomma lo maledice in qualche modo. È una ballata diffusa anche in Ungheria, in Catalogna, insomma è fa parte di quella tradizione dei canti narrativi che risalgono in secoli addietro e di cui Leidy ha fatto anche uno dei suoi corsi monografici all'università. E come dicevamo, un altro argomento di questa conferenza di Roviano è stato appunto la musica cretese, di cui ci siamo occupati e ci occuperemo anche in futuro, quando poi probabilmente verrà a trovarci anche Stelios Leinakis. Stelios Leinakis, che sentiamo qui in una registrazione giovanile di un brano, Acmi Chromu, che fa parte di questo repertorio urbano, appunto con influenze anche turche, e andiamo a sentirlo. Thank you. αχ στο ψευτικό σμοστέναζω, αχ μικρό μου θα σου παραπονιούμε, θα σου παραπονιούμε. Αχ, γιατί ποτέ σου δε ρώτας, αχ μικρό μου, που βρίσκομαι και πού με, που βρίσκομαι και πού με. Αχ μικρό μου καιρός να με λυπάσαι, καιρός να με λυπάσαι. Άκλες με μαύρα δάκρυα, αχ μικρό μου, και εμένα θα θυμάσαι, και εμένα θα θυμάσαι. Su Ethno Chic, ora stiamo a chiamare Giovanni De Zorzi, che è un musicologo, ecco, e ricercatore dell'Università di Venezia. E lui ha organizzato questo convegno per presentare questa Theory and Practic in the Music of the Islamic World. Ciao Giovanni, ci senti? Eccoci. Buonasera Giovanni. Buona serata allora Giovanni. Buonasera a voi. Allora, buonasera a voi e a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Sì, ci abbiamo ascoltatori anche in Brasile, pare. Pare. Anche uno in Australia, sì. Sì, la radio permette questo. E invece, insomma, dicevo appunto la scorsa settimana sono venuto a Venezia dove avete fatto questa presentazione in questo importante volume uscito per la Routledge, che è insomma un'etichetta specializzata in questo tipo di pubblicazioni, appunto sulla musica del mondo islamico. Sì, in realtà è un titolo che questo riguarda, è una cosa che riguarda gli editori, non dovrei essere io a dirlo, ma all'inizio il titolo era molto più affascinante, che era Tune in the Past, che poi Owen, quello Owen Wright, che quello è il titolo che io ho usato poi per il concerto modificandolo. Però Tune in the Past è particolare perché descrive molto il lavoro che ha fatto Owen Wright sui manoscritti dell'antichità, e dai manoscritti dell'antichità rifar uscire dei suoni. Sì, perché appunto la particolarità di questi raccolti di scritti è anche che trattano, cioè non hanno un approccio unico, ma comunque ci sono scritti di tipo etnografico, di tipo musicale, di documentazione e ricerca sul campo, di un lavoro sui manoscritti appunto della musica. Che poi quando si parla appunto di musica del mondo islamico, ricordiamo tutti, si va praticamente dalla anche da, insomma, fin dove sono stati i turchi, quindi in qualche modo anche l'area dell'Europa balcanica, fino all'India del Nord, allo Xinjiang, quindi la Cina, insomma, quindi un'area molto ampia. Dall'Andalusia alla Cina, più o meno. Esatto, e poi sì. Lungo 42esimo parallelo, più o meno, compresa l'India del Nord, ovviamente, come dicevi tu. Sì. Quindi una buona parte. E appunto, poi, in questa occasione, tu hai fatto appunto una relazione in cui hai parlato di uno che è un po' il progetto musicale che stai seguendo dal 2012, che è l'Ensemble Birun, giusto? Sì, l'Ensemble Birun è un progetto che è diretto da Kutsi Ergüner come direttore artistico. Io sono una sorta di factotum, siamo consulente scientifico. E il terzo membro del trio è Giovanni Giuriati, che è il direttore della Fondazione dell'Istituto Interculturale e Studi Musicali Comparati della Fondazione CINIC. Della Fondazione questo... CINIC, dove, che è l'isola di San Giorgio a Venezia, San Giorgio appunto Mantua, a sede. E praticamente questo laboratorio ogni anno si svolge, giusto? Sì, adesso te la racconto, è un progetto in più fasi che si svolge dal 2012 e le fasi sono diverse. Uno, individuiamo un tema all'interno della storia della musica del mondo ottomano, che è molto vasta, dal 1322 fino al 1925. Poi una domanda per ammissioni a chi è interessato a partecipare e deve mandare delle sue registrazioni in formato MP3 e un curriculum vitae. Ne sono arrivati moltissimi, il che dimostra che questa musica è molto amata e viva. Sì, la cosa interessante è appunto che non stiamo parlando di archeologia, ma di qualcosa che vive e che continua, e questo progetto direi che contribuisce molto, è molto importante proprio perché contribuisce a questo obiettivo, insomma. Ma sì, ma le candidature che arrivano sono tutte di gente che ha sui 20, 22, 23, sotto i 30, certo. non dinosauri come me, che no, sono ma arrivato tra l'altro, più tardi a queste cose. Noi abbiamo avuto ospite in radio proprio un ragazzo brasiliano che suona questa musica, e anche suo padre suonava questa musica, e infatti è venuto a suonare, che è stato in Brasile, per cui insomma... Per cui è proprio una musica che va al di là dei confini, cioè in tutti i sensi, non solo appunto lungo il 42esimo parallelo. No. Quindi selezione del tema, candidature che arrivano, selezione dei candidati, si arriva alla settimana di lavoro in residence sotto la direzione del maestro Ergüner, in questo caso sarà dal 19 al 24 marzo prossimi, la settimana prossima, registrazione per l'etichetta Nota Udine, e se la qualità lo consente poi esce o viene pubblicato un CD. È successo per tutte le edizioni tranne una. Ascolta, a questo proposito, quindi dal 2012 voi avete pubblicato il primo, mi pare che è stato proprio quello sui compositori, sì, alla corte ottomana. Compositori alla corte ottomana, poi compositori armeni nella musica classica ottomana, dedicato a un tema un po' spinoso, i Maftirim e le opere degli ebrei sefarditi nella musica classica ottomana, era il terzo. Il quarto è stato i compositori greci del Makam ottomano, e il quinto viene presentato il 24 marzo prossimo in occasione del concerto ed è dedicato alla musica delle corti d'Herat a Costantinopoli, nel tempo e nello spazio, soprattutto dedicato all'opera di Abdülkadir Maraghi, che era il compositore vissuto alla corte di Tamerlano. E come giustamente ricordiamo che non sono solo dei CD, ma sono dei CD book, quindi c'è un libretto, per esempio in questo caso un libretto bilingue italiano-inglese di 80 pagine, non solo di commento, di contestualizzazione, ma anche con i testi che sono tradotti. E in questo caso è un doppio CD book, giusto? Sì, questo è un doppio CD book, è venuto un sacco di materiale. I testi sono tradotti in particolare da Stefano Pellò, che insegna lingua e letteratura persiana all'Università Capostri di Venezia, e da Gian Piero Bellingeri, che insegna lingua e letteratura turca all'Università Capostri di Venezia. Ascolta, con il quale lavoro anch'io, poi, tra l'altro, quindi sono colleghi e amici. Ascolta, tu mi hai mandato due esempi che sono un po', come dire, così, un'anteprima di questo. Un'anteprima a titolo di esempio. L'introduco? Vado? Sì, Il primo è questo preludio lento. Il primo è questo brano molto solenne, abbastanza lento, attribuito, si chiama Adem Peshrev. Adem è il modo, un modo che in termini, diciamo così, occidentali può essere equivalente al fa. Si risolve intorno alla nota di fa. Peshrev è un genere, quindi preludio. Il ciclo ritmico è Devri Kebir, molto lento, in 28 quarti, e la composizione è solo strumentale ed è attribuita a Sultan Veled, un poeta di lingua persiana, vissuto tra il 1226 e il 1312, ben noto per chi si occupa di poesia, ma è ben noto anche perché è il figlio di Maulana Jalaluddin Rumi, 1207-1273, che è il fondatore della confraternita del Bishirotan. Lo ascoltiamo. E adesso andiamo ad ascoltarlo. Certo. Thank you. siamo sempre su Ethno Chic 94.7, 96.250 e siamo qui con, al telefono con Giovanni De Zorzi a parlare di questo doppio CD book in uscita per la Notte Edizioni dell'Ensemble Birun, musica delle corti da Arat a Istanbul. Giovanni, eccoci qui. Ci sei. E ti volevo chiedere appunto sulla, su questo discorso. Molto spesso parlando di questa musica si parla di musica classica ottomana, si fa un po' di insomma un po' di generalizzazione, no? Di confusione. Musica scritta, manoscritti, tradizione orale. Poi magari insomma per i nostri ascoltatori, per cui questa musica è qualcosa di completamente nuovo, magari darci un quadro un pochino più preciso. È una musica che ha sviluppato diverse forme di scrittura, perché il sultano pagava bene chi inventava forme di scrittura, che è stata conservata in manoscritti. Ma la grande e preponderante forma di trasmissione era quella della trasmissione orale, secondo un metodo che viene detto Meshk. Il maestro viene davanti a un gruppo di allievi, a una classe, fa vedere come si fa una volta, due volte, tre volte. Questi ritornano a casa e se lo rifanno per conto loro, e la volta successiva vengono e si fanno sentire al maestro quello che ricordano. Questo dà la possibilità di dar vita a varie versioni e varianti possibili di un brano. Ed è un sistema che è arrivato fino agli anni 20-30, quando ha vinto completamente la notazione, e anzi, in quanto musicista, veniva considerato grezzo e ineducato e ignorante se non sapevi leggere la musica, mentre magari la tua memoria conteneva quantità enormi di musica, ore di musica appresa con il corpo, secondo altre forme. Calcola che una volta la memoria non è la memoria da pesce rosso che abbiamo noi oggi, che deleghiamo tutto a Google o al cellulare, roba varia. Certo. Lì il preservatore, era stato uno scandalo a Costantinopoli quando era stato eletto come preservatore di determinati repertori che vengono detti i lahi devozionali, è stato eletto uno che ne sapeva solo 26.000, ed è stato uno scandalo. Pensare. Okay. Ma in questo cambio che tu appunto parlavi, gli anni 20 e 30 del secolo scorso, ha influsso anche il famoso congresso del Cairo del 32, in cui hanno cercato di codificare? No, quella è stata una cosa successiva, quella è stata una cosa grande a modo suo, che ha fatto sì che al congresso del Cairo venissero riuniti i musicologi e i musicisti di questo famoso 42esimo parallelo, di tutta questa area del mondo islamico, e effettivamente erano andati migliori. Esiste una versione in 30 CD carissima, straordinaria. Mm-hmm. Sì, sì, la conosco, sì. Ecco, sei ricco. No, non ce l'ho personalmente. L'ho trovata, diciamo così. Non ce l'ho. Ha dato vita a una marea di dibattiti e discorsi che ha portato alla formulazione del sistema, di un sistema unico in quarti di tono, che è un falso clamoroso. Non esiste il quarto di tono nelle varie tradizioni. Nella tradizione ottomana è una tradizione che deriva direttamente dalla tradizione greco-classica, ellenistica, e abbiamo sistemi pitagorici in 17 microtoni, poi 22, 23, anche 42, ma assolutamente non in quarti di tono. Questa è stata una cosa così, per mettere d'accordo le cose. Sì, è stata una specie di temperamento, insomma, in qualche modo. È stato qualcosa per dire: anche noi abbiamo la nostra musica codificata, certo. E siamo anche noi come voi occidentali. In realtà è stato un po' un pasticcio politico, come ne accadono parecchi. Chiaro. Il prossimo brano è in Makam Rast, giusto? Makam Rast, in modo Rast, giusto, dritto, corretto, questa è la traduzione di Rast, ed è un po' più brioso, è un'opera questa volta vocale, su su un piccolo testo, una quattrina, e si chiama Raff Chiarce. Chiarce vuol dire piccola opera, in Makam Raff. Il ciclo ritmico è Hafif in 32 quarti e il testo recita Emshab, Keroch, Ashcherag, Ebasm, Emanbud, ed è dal persiano. La musica è di Abdulkader Maraki, questo compositore che ti ho detto che che è stato molto importante. Sì, fondamentale alla corte di Tamerlano, ma poi si è mosso, è andato a Herat, nell'attuale Afghanistan. Muore nel 1435, non sappiamo bene quando sia nato, e il testo che viene cantato dice: il suo volto quella notte era un lume al mio banchetto, lui mostrava nelle gote primavera, nei miei occhi fiorivano le rose, in quel nido di luce il buio se ne stava alla finestra. E adesso andiamo a ascoltarlo. Oh, Giovanni? Sì? Quindi ad aprile ci sarà la presentazione di questo CD-book? No, non aprile, 24 marzo, tra poco. Ah, il 24 marzo. Settimana prossima, è proprio un'anteprima. E quindi ci sarà anche un concerto? Sì, 24 marzo, concerto sempre conclusivo, 24 tra un po', marzo. Sì. E dove? Sempre alla Fondazione Cini, giusto? A Venezia. Cini. Adesso ti metto anche nella mailing list. Perfetto. Bene. Dai, io ti ringrazio molto di questa anteprima e soprattutto insomma di aver raccontato ai nostri radioascoltatori, che sono molto curiosi insomma di questo lavoro che state facendo. Speriamo che non si siano annoiati a Venezia. Troppo. No, perché io anch'io ti sono ringrazio stati già tanto. Messi alla prova e hanno reagito bene, perché insomma sono ascolti differenti e insomma è importante insomma avere. Sono a disposizione, quando hai bisogno fammi un fischio. Certo, ti ringrazio molto Giovanni, ci sentiamo presto. Grazie, ciao. Un saluto, ciao. Ciao. E ringraziamo molto Giovanni appunto De Zorzi, ricercatore, etnomusicologo dell'Università Ca' Foscari di Venezia e appunto che ci ha parlato appunto di questo lavoro sulle musiche ottomane. Sì, chi senza ombra di dubbio non ti ha annoiato, perché a me veramente mi è incuriosito ancora di più questo tipo di musiche, cioè perché come dicevamo fuori onda, in questa tipologia di musica la voce è un strumento, non è che suono per far dopo sentire la voce, no, la voce è un strumento dentro la musica, non c'è uno che suona sì, più dell'altro. Poi c'è un flusso sonoro che sì, è molto, molto particolare. E restiamo sempre in ambito medio orientale e stacchiamo un attimo con questo taksim, questa improvvisazione. Sempre abbiamo parlato degli anni 20 e 30, questa è una registrazione appunto degli anni 30 di Yusuf Pathpatav al Santur. Al-Iraq, taksim Santur, maqam Alj, Yusuf Efendi Bato. E appunto oggi dedichiamo un piccolo approfondimento all'Iraqi Makam, ai Makam iracheni, che hanno una loro caratteristica particolare, sono un repertorio molto importante che riguardano sia le musiche cosiddette colte, vocali o strumentali, sia quelle religiose, che suonato sia da professionisti che da non professionisti, recitati a solo oppure in gruppi che di solito si chiamano al-Chalgi, al-Baghdadi, che vorrebbe dire ensemble di Baghdad. È un repertorio che viene fatto risalire alla tradizione orale arabo-islamica che si sviluppa a Baghdad fin dall'epoca del IX secolo. Questo repertorio si è portato nei secoli, di cui insomma è difficile ricostruire un po' tutto il percorso. A partire dal XX secolo abbiamo poi tutta una serie di documenti sonori con le prime registrazioni e si formano delle scuole intorno alle città di Baghdad, Mosul e Kirkuk. Il prossimo esempio è sempre gli anni 30, è una cantante, Sultana Yusuf, e ve lo facciamo sentire questo brano. Questo appunto il Makam iracheno Si sente, c'è un cantante solista che può essere un uomo o una donna, che è accompagnato appunto da questo ensemble tradizionale chal, che si è chiamato al Chalghi al Baghdadi, che di solito ha un santur, quindi quella è una cetera trapezoidale con 23 triple corde che vengono appunto battute con delle bacchette. Poi una specie di violino, di viella, strumento ad arco tenuto diritto che si chiama josa, la tabla che è un tamburo a membrana, un daf cinzari e poi una nacara che invece è un timpano doppio, con alcune variazioni. È importante capire che il makam iracheno è proprio una tipo forma composizione che utilizza sì il makam come modalità eccetera, però con non è strettamente legato alla struttura del modo makam, ma anche l'interprete ha la possibilità all'interno del solco della tradizione di prendere la propria, di interpretare queste musiche e di avere una propria creatività all'interno nell'uso, nella manipolazione di questi materiali melodici. Il repertorio comprende una cinquantina di makam, quindi sono più o meno una cinquantina di makam iracheni. I sette makam principali sono il Rast, il Bayat, il Saiga, l'Ijaz Divan, il Saba, l'Usaini e l'Ajam, che si ripetono abbastanza spesso nelle registrazioni dagli anni 30 a oggi. Facciamo sentire questi brani registrati con questo ensemble, di cui il cantore principale, questo Yusuf Omar di Baghdad. Sono registrazioni 1975, però è stato registrato più volte, fra l'altro anche da Sherazad Hassan, che era una delle relatrici del convegno di Venezia mercoledì scorso. E in questo caso lo sentiamo, la prima registrazione che sentiamo è la prima parte di un brano in Makam Rasht. غيري السنوان على السنوان قادر وسواي في العشاق غادر غيري على السلوان قادر وسوى dobbiamo sfumare perché tra poco se no ci taglia il notiziario, ma continueremo la prossima volta sui makam, ancora makam iracheni e makam particolari dalla Siria. E con questo vi salutiamo, vi ringraziamo ancora per la vostra attenzione, per il vostro ascolto. Etno Chic, Radio Città del Capo, tutti i mercoledì dalle 21:30. E buonanotte Azul. Buonanotte Vladimiro. Oh!